Benvenuti ad Absolute Beginners, questo è Babe. Questo è Sasà. Oggi una trasmissione, diciamo, che si discosta dalla nostra consuetudine. Marisa Anderson è una chitarrista e per una volta mettiamo un disco di chitarra solista, rarissimo. Chitarra elettrica, solista, e vi lasciamo un attimo ascoltare i primi pezzi per capire che genere, non ve lo anticipiamo, io però vi dico Marisa Anderson, non siamo riusciti a scoprire l'anno di nascita, ma io direi attorno agli anni 70 o forse primi anni 80 del oramai secolo scorso, chitarrista nata nel nord della California, ma ha girovagato per anni prima di stabilirsi in Oregon, a Portland, dove tuttora vive e tuttora produce dischi come questo Mercury 2013. Andiamo. Thank you. Gentili ascoltatori, siamo più o meno nel 2013, anno di uscita di questo disco di Marisa Anderson, un disco praticamente autoprodotto in vinile su una piccola etichetta, ma dopo anni di girovagare, me la immagino Marisa Anderson che suonava in giro per gli Stati Uniti, lungo la costa, nelle stazioni della metropolitana o in piccoli pub, in piccoli locali, perché questa è musica che immagino si possa apprezzare al meglio in piccoli pub, in piccoli bar, in piccoli locali delle varie metropoli americane e che tuttora ha un suo seguito. Ovviamente no. Qualcuno di voi forse conoscerà John Fay, che negli anni 60 cominciò a riscoprire questa chitarra folk. Qua però siamo su chitarra elettrica. Ma l'andazzo è questo: appena ho sentito il disco di Marisa Anderson, la prima cosa che ho pensato è stato alla chitarra di John Fay. Sì, vabbè, e non solo, come dicevi tu, girovagando, suonando in questi posti, sono i luoghi che ci vengono in primo luogo alla mente, se pensiamo, quando ascoltiamo questa musica, ma Marisa Anderson, di formazione classica, perché i genitori gli fecero studiare un pochino di chitarra classica, forse proprio girovagando ha conosciuto questa musica e l'ha sentita con le sue orecchie, l'ha provata sul suo corpo e sulle sue dita. È così che quindi John Fay gli è arrivata probabilmente ed è così che questo album, come i suoi predecessori e successivi, prendono forma. Thank you. Eccoci qua, Absolute Beginners Marisa Anderson e come diceva saggiamente Babe, John Fay, per chi lo conosce, guru, dio della chitarra Delta Blues, la riscoperta della chitarra Delta Blues americana, Marisa Anderson sicuramente ci ricorda queste sonorità. A me però ricorda anche Ry Cooder, in quanto Ry Cooder prese la chitarra elettrica per fare questo tipo di musica, mentre Faye era comunque improntato e stabile sulla chitarra acustica e classica. Quindi una John Faye femmina è un pochino più moderna. Beh sì, comunque non so se sia stato girovagando ascoltando dischi, però penso che nella tradizione americana ascoltare country, folk, blues, tanto blues anche quello di Robert Johnson, quel blues tradizionale, quello più acustico, neanche ancora elettrificato, sia una cosa molto comune. Non lo sapevo mai, non siamo cresciuti in quelle lande. Poi andando in giro, ripeto, era tradizione andare in giro con la chitarra e mettersi a raccattare qualche soldo. Ma si sente che Marisa Anderson abbia, oltre che essere andata in giro, penso che abbia un buon background di studi accademici o meno di chitarra, sa dove mettere le mani. Certo, di qualcosa in più di tecnica e di talento. Thank you. Questa è Absolute Beginners, state ascoltando Mercury di Marisa Anderson. Non vi capiterà tanto spesso di ascoltare chitarre, dischi di solo chitarra, anche perché sono pochi i dischi belli, meritevoli di solo chitarra. È molto difficile fare incidere anche solo 33 minuti, come è il caso di questo Mercury, di tracce di solo chitarra. È difficile tenere l'attenzione e magari, ok, se uno non è addetto ai lavori può apprezzare la tecnicità di Marisa Anderson, ma non è questo il bello del disco. Il bello del disco sono le armonie e soprattutto penso le atmosfere che Marisa è in grado di evocare con le sei corde e anche con gli effetti. Marisa Anderson usa una chitarra elettroacustica, a volte usa una slide, ma non disdegna, immagino, anche effettistica varie, pedali e quant'altro. Certo, vabbè, il riverbero, il chorus, un pizzico proprio lieve di distorsione rendono le atmosfere di cui parlavi magiche, secondo me. Se ne parliamo oggi ad Absolute Beginners è perché anni fa mi capitò di trovarmi ad un concerto di Marisa Anderson all'interno di un festival e io non conoscevo questa ragazza. E fui rapito, ma l'impressione che ebbi fu che non ero solo io quello rapito, mi sembrava che tutti gli spettatori, sembrava di stare attorno al camino e una nonna ci raccontasse qualche favola, insomma, c'era questa atmosfera, non vorrei dire religiosa, ma né solenne, ma molto rilassante e confortante. Thank you. Eccoci, proprio qua abbiamo ascoltato uno dei pezzi dove Marisa Anderson accende quel pizzico di distorsore di cui parlavo prima e ci regala questi pezzi brevi. Sono tanti, infatti, 16, 15 in questo album Mercury, uscito prima per Mississippi Records, poi invece ristampato per Important Records, un'etichetta del Massachusetts, e questo siamo. Come penso di aver già detto, nel 2013 Marisa Anderson ha rilasciato un album anche nel 2020 ed è una musicista più che attiva, anche se in questo periodo di Covid si sarà dovuta un pochino stabilizzare a Portland, Oregon e mettere un pochino di tregua alle sue, Peregrinazioni. ai suoi pellegrinaggi, infatti. Però era in giro già da un po', era in giro, mi sa che tutti gli anni zero li abbia passati in giro a suonare dove poteva, e la Mississippi Records, che penso sia un negozio in realtà di Portland, le aveva già stampato solo in vinile o in cassetta addirittura, altri due dischi, ovviamente di limitatissima distribuzione. Bello che l'underground riesca a promuovere anche generi come questo, che sembrano, come dire, musica per adulti. Una volta sarebbe stata musica di un certo tipo, per un ascolto adulto, tra virgolette, non è il classico do it yourself del punk, no, ma siamo anche nel 2013. E poi Important Records, che è un'etichetta molto attenta al noise, ma anche ad alcune cose legate al folk, l'ha poi ristampata. Ma infatti Babe è musica per adulti, ma addirittura si potrebbe dire musica morta, che non esiste più, non vende più, e invece c'è una riscoperta piacevole di queste sonorità che sono belle, tuttora ci incantano, insomma. Tra l'altro, Marisa Anderson, dopo aver registrato questi album, le sue ultime uscite sono con la Thrill Jockey Records, della quale abbiamo già parlato ultimamente quando abbiamo parlato dei Trans Am. Chicago, ma comunque finché l'importante è la musica, e quindi tenere di uno strumento come Marisa Anderson sa fare, prima o poi qualcosa arriva. Thank you. Non solo John Fay, poi mi è venuto in mente anche Sandy Bull, che era un chitarrista magari meno conosciuto, sempre degli anni 60, che aveva cercato di mescolare musica folk e musica classica, aveva fatto anche reinterpretato anche dei brani di classica molto famosi, come per esempio i Carmina Burana. Beh, insomma, siamo lì, forse è una tradizione che è un po' come il garage in America dagli anni 60, 50, soprattutto poi negli anni 70, 80. È rimasta nell'underground, ma sì, penso che un pubblico, uno zoccolo duro di persone che ascoltino chitarristi folk, magari da noi un po' meno, ma negli Stati Uniti ci siamo sempre stati. Ma se l'ascoltiamo noi ora qua in Europa, vabbè, vuol dire che ci saranno ancora più persone negli Stati Uniti che ancora, come dicevo, per battuta, è un genere duro a morire. E con l'ultima traccia, Red Sky, abbiamo finito Mercury. E abbiamo finito anche questa puntata di Absolute Beginners. Beh, ricordo che se volete potete vedere tutti, ascoltare e leggere tutti i nostri blog e podcast su neverbeginners.blogspot.com. Perdonate il mio inglese, ma comunque più o meno l'avrete capito, spero. Ci sarà anche questo podcast su Marisa Anderson. E con questo vi salutiamo e al prossimo podcast. Ciao Sasa. Alla prossima, ciao Babe, ciao a tutti.